Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko, siamo tornati noi di 451 Intersezioni, conduce stasera Elisio Scarpa, dunque un saluto dal sottoscritto per questa serata che incomincia a essere piuttosto fredda e questa marcetta pianistica con una sorta di piano old style, un po' anche malconcio, che ci introduce la puntata di questa sera di 451 Intersezioni, puntata che verrà costruita e sviluppata su un progetto, su un collettivo assolutamente unico e geniale, assurdista, dadaista e chi più ne ha più ne metta, un collettivo comunque legato alle sperimentazioni sia analogiche che elettriche che elettroniche, ma anche acustiche, semplicemente acustiche come sentiamo in sottofondo con questo pianoforte, questa marcia assolutamente devastante nel senso buono della parola, di un personaggio chiamato Gerald Ball, e si tratta appunto stasera di una puntata che è costruita ovviamente in parte, perché non riusciremo mai a sviluppare in un'ora circa tutto il materiale sonoro sviluppato da questo collettivo, da questo progetto, da questo ensemble americana, e la chiamiamo e l'abbiamo chiamata Free Music Society, ed è tratto da questo collettivo Los Angeles Free Music Society, nato nel 1974 con tre teste geniali, Joe Potts, Rick Potts e Chip Chapman, che hanno sviluppato questo progetto assolutamente aperto che ancora oggi continua a sviluppare dei momenti di performance e di concerti, oltre che di registrazioni assolutamente alle volte casuali, improvvisate, in questa sorta di luogo aperto sia fisicamente che musicalmente a Los Angeles, che ha sviluppato dal 74 fino ad oggi moltissimi progetti, moltissimi incontri tra varie personalità musicali legate alla sperimentazione, sia appunto, come dicevo prima, acustica che elettrica che elettronica, e questa Los Angeles Free Music Society ha fatto uscire un cofanetto nel 1996 che riassumeva fino appunto alla data del 96 i progetti, i lavori, le sperimentazioni, le improvvisazioni costruite in questa sorta di collettivo itinerante permanente legato appunto alla città di Los Angeles. E noi apriamo subito con uno splendido lavoro che è stato costruito dal progetto Precambium Free, contenuto appunto in questo cofanetto che ve lo ricordiamo anche per coloro che fossero interessati a reperirlo o acquistarlo. Si tratta di Los Angeles Free Music Society, The Lowest Form of Music, uscito appunto nel 1996. E questo progetto apre perfettamente, secondo me, il percorso di stasera, perché riesce a riassumere nell'elaborazione sonora di questo brano un po' tutte le venature delle musiche elaborate e sviluppate dentro questo contesto, a questo contenitore aperto. Si sentono echi jazz, come echi legati a una certa elettronica che negli anni 90 comunque veniva assorbita in maniera intelligente da questo progetto collettivo, ma anche tante suggestioni legate a musiche piuttosto tradizionali, occidentali, ma non solo, anche orientali, ma rielaborate in un'ottica assolutamente originale, assolutamente sorprendente. Andiamoci dunque intanto a sentire questa sorta di viaggio sonoro costruito da Precambium Free, e poi ritorneremo a presentare gli altri progetti. Chiaramente in un'ora non potremmo esaudire tutte le possibilità legate a Los Angeles Free Music Society, essendo veramente molti progetti e molti brani contenuti in questo cofanetto di 10 CD, ma intanto iniziamo a farvi ascoltare, a farvi assaggiare qualcosa di questo splendido lavoro assolutamente unico. Los Angeles Free Music Society, ascoltiamo Precambium Free. We'll be right back. siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato questo splendido lavoro del progetto Precambium Free, progetto che in questo brano in particolare si è fatto anche aiutare, possiamo usare questo termine, dal violinista Michael Allen Cott, nel progetto di Jewels of Daniel, che è il brano appunto inserito dentro questo cofanetto di Precambium Free. È giusto dire e specificare che tutti i lavori composti dai vari musicisti, dai vari progetti e anche dai vari collettivi nati ovviamente connessi al cofanetto sono stati realizzati nel 1996, proprio la data in cui è uscito l'album, appunto il cofanetto di 10 CD. Precambium Free, che è un progetto nato negli anni 90, proprio a cavallo dell'uscita di questo cofanetto, e l'album che ha fatto esordire questo progetto è proprio Jewel of Daniel, che dà il titolo all'intero album, il brano proprio che abbiamo appena ascoltato, un progetto nato dall'incontro di tre musicisti assolutamente eclettici come Juan Gomez, Michael Anclot e Tom Rekion, personaggio che spesso ha attraversato 451 frammenti sonori. Rekion, che poi non è stato tra i tre fondatori del progetto collettivo del 74, ma si è aggiunto poco dopo, facendo parte sempre di più di questo enclave estremamente aperto e assolutamente dadaista. E dentro il concetto e l'elaborazione musicale dadaista andiamo invece ora a pescare un altro personaggio che ho appena oltretutto citato, cioè uno dei fondatori del progetto Los Angeles Free Music Society, cioè Chip Chapman, che ha portato avanti dentro l'idea di Jewel, scusate, anzi The Newest Form of Music di Los Angeles Free Music Society, appunto questo cofanetto, ha portato avanti vari progetti e varie collaborazioni all'interno di questi 10 CD con vari autori, ma ha anche portato alla luce dei brani assolutamente nuovi, inediti, a suo nome. È proprio questo andiamo a pescare, un brano a suo nome, e dunque un progetto totalmente suo di Chip Chapman, che apre proprio il cofanetto nel primo CD, nel CD di apertura, un brano che assolutamente geniale, dove la musica per il gamelan e il sintetizzatore si fondono in una sorta di unione tra futuro o presente, se vogliamo, elettronico, tecnologico, e uno strumento storico, antico, quasi primordiale, usiamo questa parola forte, legato alle musiche popolari, alle musiche tradizionali come il gamelan, anche una sorta di unione tra passato, presente e futuro. Un brano assolutamente ipnotico, strutturato oltretutto con variazioni armoniche e ritmiche assolutamente spiazzanti, ma a questo punto è ora di ascoltarselo. Dunque, Chip Chapman con il brano Music for My Gamelan e Synthetizer, con il percussionista, che poi non è un percussionista ma proprio una vera e propria orchestra, la Chel Arts Gamelan Orchestra, che ovviamente esegue la composizione di Chapman, che lavora chiaramente al sintetizzatore. Andiamocelo a sentire da Los Angeles Free Music Society. Chip Chapman, dunque dal brano Music for Gamelan and Synthesizer, splendido lavoro, ipnotico e assurdista come gran parte del lavoro complessivo di Los Angeles Film Music Society. In questo cofanetto Chip Chapman, che appunto come dicevo prima è stato uno dei fondatori di questo progetto collettivo e è stato anche parte, membro di due importanti progetti, poi tutto sommato legati, di improvvisazione, di ricerca sonora, legate sempre a questo contesto, a questo contenitore assolutamente aperto, cioè gli Arway e le 4-4, che sono oltretutto presenti come progetti nel cofanetto stesso. E sempre all'interno di questo assolutamente geniale caleidoscopio di stimoli e di aperture, se non addirittura veri e propri voli verso musiche assolutamente inconcepibili rispetto al mainstream dominante, questo progetto nato nel 74 ha continuato a portare avanti questa idea collettiva aperta di progetti, di ambiti assolutamente nuovi per elaborare musiche, per incontrare linguaggi e per decodificare linguaggi già conosciuti e costruirne completamente dei nuovi. È andato avanti anche negli anni 90 e negli anni 0, ma sicuramente con produzioni minori. Il momento, diciamo, le due decadi di forte produzione, di forte incontro, di happening musicali sono stati sicuramente gli anni 70 e 80. Ma la cosa interessante è che questo progetto continua ad esistere, essendo un ambito anche aperto a nuovi musicisti e nuovi autori, seppur sempre connessi al gruppo, diciamo, di musicisti, di sperimentatori, fondatori di questo progetto. E da Chip Chapman è questa sorta di ballata ipnotica, incontro fra uno strumento antico come gamelan e strumenti effettivamente figli del Novecento tecnologico come il sintetizzatore. Andiamo a pescare invece veramente una costruzione musicale assurda e dadaista, oltretutto provocatoria, perché il progetto prossimo che andremo a pescare, cioè i Duets, vanno a costruire all'interno di questo cofanetto un brano assolutamente impensabile, cioè una realizzazione sonora costruita interamente con un'orchestra fatta di api e di uccelli. Ovviamente il progetto The Duets ha microfonato suoni di api, suoni di uccelli in un ambiente chiaramente esterno e poi ha costruito questa sorta di orchestrazione che oltretutto è estremamente suggestiva e divertente. E questo è un altro modo ovviamente musicale, un altro linguaggio, un'altra opera che viene espressa all'interno di questo assurdo caleidoscopio di sperimentazioni. E a questo punto andiamocelo a sentire. The Duets, ricordiamo ancora qualcosa, formato questo gruppo sempre all'interno di questo progetto collettivo di Los Angeles da Dennis Duck, Fredrik Nielsen e Harold Schrader. Oltretutto all'interno della loro produzione decennale si sono anche inseriti altri musicisti sempre di questo contesto e anche di contesti differenti per varie collaborazioni. Intanto andiamoci ad ascoltare questa orchestra di api e di uccelli, infatti il brano poi in particolare, così ve lo dico in maniera proprio esatta, Bird and Bee Orchestra, con ospite d'onore Joseph Jacobs. Andiamocelo a sentire e sentiamo un po' queste api e questi uccelli a questo punto. Thank you. siamo ritornati in diretta, abbiamo fatto un mix fra l'orchestra di uccelli e di api, veramente assurdista questa idea del progetto che abbiamo appunto mixato con questo ultimo brano. Ricordiamo ancora il lavoro costruito da Duduez, l'orchestra appunto di api e di uccelli, e l'abbiamo mixata con gli Smegma, un gruppo e una formazione tra le più prolifiche all'interno di Los Angeles Free Music Society. Ha continuato la sua attività dal 78 fino ad oggi con moltissimi album, un collettivo veramente enorme, nel senso che con la presenza quasi di 30 musicisti che si sono turnati nei vari progetti, dunque non ve li sto neanche a elencare, alcuni ovviamente hanno attraversato altri progetti e sono ovviamente tra i fondatori di Los Angeles Free Music Society, ma molti altri che hanno attraversato questo progetto collettivo apertissimo, appunto quasi 30 elementi hanno attraversato la storia di quasi 40 anni di musica. Smegma con un impianto sicuramente più punk, più rock, come sentiamo ancora nel sottofondo, con delle matrici anche molto molto tirate, dunque ritmicamente molto molto forti, ma avrete sentito anche nel brano che abbiamo appena ascoltato come anche questa dimensione punk post-punk, figlia appunto anche della nascita del 78 di questo progetto, risente poi di molti elementi di sperimentazione, di assolutamente discrasie dalla struttura ritmica e armonica che è tipica appunto della sperimentazione e della ricerca totale di Los Angeles Free Music Society, in questo particolar caso degli Smegma. E subito, velocemente, perché il tempo come al solito è tiranno, abbiamo un'oretta scarsa, dunque dobbiamo velocizzare, andiamoci a sentire il prossimo progetto, che è un titolo già estremamente provocatorio: Paul is Dead, Paolo è morto, un altro progetto musicale assurda e assurdista di Los Angeles Free Music Society. Paul is Dead, Crazy il brano, dunque pazzo, ma effettivamente il progetto è assolutamente pazzo, questo di Paul is Dead. Anche questa è un'altra traccia che può dare l'idea di quanto sia immenso e vasto e senza limiti l'universo sonoro di Los Angeles Free Music Society. E per chiudere ormai, perché siamo vicini alle 21, per chiudere il nostro primo passaggio all'interno di Los Angeles Free Music Society, ci saranno sicuramente altre puntate nel corso di 451 intersezioni di quest'anno, in cui cercheremo di attraversare altri progetti e altre sonorità di questo, all'interno di questo calderone assolutamente senza limiti del progetto collettivo di Los Angeles Free Music Society. Chiudiamo con un brano di un autore che abbiamo ascoltato proprio all'inizio, in apertura di 451 intersezioni, come sottofondo per aprire il capitolo dedicato a questo ambito di Los Angeles. E Gerald Ball, che fa parte ovviamente di questo collettivo immenso e che attraversa anche altri progetti al di fuori di Los Angeles Free Music Society, ma che all'interno anche di questo componente, con vari brani estremamente suggestivi, molto intimisti, ma anche un po' sbilenchi, un po' frastornati, con un piano old style quasi disarmonico, non accordato in alcuni momenti sembra, e ce l'andiamo a sentire questa sorta di ballata che chiude la puntata di stasera. Io vi voglio ricordare chiaramente che 451 frammenti sonori, l'altro spazio collegato a 451 intersezioni, sarà sempre qua su Radio Fujiko e partirà la trasmissione condotta da Max Macchia, che saluto, sempre mercoledì da mezzanotte alle 2 di notte, e da lunedì prossimo per due puntate ci sarà invece lo spazio di 451 intersezioni, che verrà aperto un po' come Los Angeles Free Music Society, con il contributo di altri conduttori, per ricordare soprattutto Pier Antonio Pezzinga in vista del concerto a lui dedicato di Larry Coe il 23 novembre a Forlì. Io vi lascio, buonanotte e ovviamente buon ascolto ancora con Radio Città Fujiko.